Oh, poi esce, qui vedo qui esce Nowhere Boy. Nowhere Boy è un film discretamente atteso, anche perché è del 2009 e da noi arriva solo adesso, sull'adolescenza di John Lennon. È un film che racconta di due anni praticamente nella vita di John Lennon, i due anni in cui decide di entra a contatto col rock e decide che farà della musica la sua vita, e si ferma proprio quando se ne va dal... La locandina è spettacolare, spettacolare. Giacasse con le stampelle al c'è il simbolo dei pirati con le stampelle incrociate al posto delle ossa sul teschio. Geniale. Dicevo, sono quei due anni nella vita di John Lennon in cui lui conosce il rock, entra in questo mondo, in questa controcultura, e si ferma il film quando lui poi lascia, abbandona la casa per andare a fare la prima tournée, a fare le prime piccole cose, come dire, dove in nuce c'è il successo. Ancora non sono i Beatles, ma sono The Quarrymen, il gruppo precedente. Appunto è un John Lennon giovanissimo. Allora, devo dire che ovviamente io non posso non consigliare questo film agli appassionati beatlesiani, completisti, insomma, a chi adora queste cose e chi è fissato con i Beatles. Ma devo dire che, semplicemente giudicandolo come un film biografico, insomma, è veramente, veramente povero, perché, sai, alle volte capita che grandi nomi non abbiano vite interessanti, quindi i film biografici lasciano un po' il tempo che trovano. Forse non è il caso di John Lennon, ma comunque di sicuro quei due anni non è successo niente. Cioè, loro hanno preso gli anni peggiori, cioè quelli dove non fa niente. Io credo che l'intento fosse, no, far vedere come nasce una grande personalità, dove la scintilla, dove è nato tutto, quando lui si è interessato alla musica. E non ci riescono. Sì, ma non è molto interessante che lui si... Cioè, alla fine è uno di 17 anni, che non ha le idee di Lennon, perché era uno che mena, quindi non ha le idee, no. Non ha quei gusti musicali, perché sono un po' più grezzi, gli piace il rock and roll, Chuck Berry, queste cose così, Vabbè, all'epoca era anche esatto, per carità, non voglio dire, però insomma non c'è nulla di così devastante che tu dici ah, però mazza, incredibile, cose che non sapevo. Poi un adolescente che si appassiona alla musica, questa vabbè. Poi a un certo punto incontra un altro come lui, dice ciao, piacere Paul, piacere John, poi ne incontra un altro, piacere George, e finisce lì il film. Praticamente sì, cominciano, suonano due cose, ma due cose due così, proprio nulla di noto, e beh, finisce il film. Insomma, non è, c'è tutto il rapporto con la madre, perché John non aveva un rapporto molto particolare con la madre, la zia che ha fatto da madre adottiva, ma insomma non è neanche, cioè dal punto di vista proprio filmico, come film vale poco e niente, come storia, come racconto lennoniano, ho detto, è per completisti, per gente che dice ah, io devo aver visto tutto quello che riguarda qualsiasi i Beatles, cosa, esatto, cioè. Quelli giusto. Vabbè, ci fermiamo a tra poco. Guardiamo, diamo uno sguardo al box office. Oh, il box office, perché è uscito, abbiamo parlato la settimana scorsa, che è uscito il nuovo film di Massimo Boldi, quindi il primo assaggiuccio proprio di Natale. Esatto, proprio la prima. E allora, diciamolo subito, è uscito il nuovo film di Massimo Boldi, Natale mi sposo, ma non sta alla prima posizione. Nonostante sia andato bene, devo dire è andato bene, in linea con quello dell'ultimo che aveva fatto, che non era stato il disastro che era stato quello precedente ancora, insomma l'esordio da solo era stata una cosa, è andato mediamente bene. Io suppongo che la casa di produzione e distribuzione sia soddisfatta, bene o male. La prima settimana 2 milioni e 4. Sì, ma è più o meno quello che si aspettavano, loro stanno intorno a queste cose, anche è un film, cioè, per chi ha avuto la disgrazia di vederlo, è un film proprio girato la domenica così, cioè tra amici. Ci ha fatto con 400.000 euro. Sì, ma... No, 400 euro, una cosa proprio così. Ma esordisce al secondo posto, perché al primo c'è la grande corazzata, cioè Harry Potter, che alla seconda settimana tiene alla grande, fa ancora 3,4 milioni con 13 milioni di totale su 800 schermi, insomma. Però ancora... guarda qua, ti faccio vedere. Vai, fammi notare un dettaglio. Guarda Benvenuti al Sud, ancora settimo che in grande, classifica tre... dopo due mesi. Sì, sì, con 303.000 euro, che è una marea, perché bisogna calcolare nell'ottica commerciale che alla nona settimana di permanenza costa di meno tenere, cioè io esercente che affitto la pizza di Benvenuti al Sud non la pago come l'ho pagata la prima settimana, perché il prezzo è a decrescere, perché si presuppone che incasserà di meno. Certo. Quindi più il film tiene, più andando avanti col tempo il suo prezzo scende, il margine per me esercente è ancora grande, quindi Benvenuti al Sud sta ancora andando alla grande nonostante faccia 303.000 euro, ma ancora è straordinario. Quasi 30 milioni, quasi 30 cosa... milioni, si avvia veramente a essere uno dei maggiori incassi italiani del decennio. Ma secondo me anche internazionale a questo punto. Bisogna vedere, l'uscita internazionale ancora non è andata, bisogna vedere che Azucia in Italia rispetto all'internazionale, questo non lo so, perché poi c'è da vedere i vari Cavaliere Oscuro, tutti i vari Harry Potter, ci sono delle corazzatone molto grosse, però sì, io posso garantire tra gli italiani era tanto tempo che non, non si sentiva. Qual è un altro film che ha fatto 30 milioni? Recentemente? Ma anche negli ultimi 15 anni di italiano. Vabbè, c'è La vita è bella che ha sfondato tutto. Sicuramente ha fatto molto giusto, di più. La vita è bella, sì, ha fatto molto di più. Ma ce ne fu adesso, purtroppo adesso io con la memoria sto un casino, però ce ne sono stati un altro paio. Come? Nuovo Cinema Paradiso pure fece moltissimo, ma ce n'erano un altro paio di questi qua clamorosi che avevano fatto un sacco. Poi sai, è molto chiaramente, c'è un dato assoluto, cioè i 30 milioni sono un dato assoluto che è fortissimo, ma poi ci sono dei casi di dati relativi, cioè rispetto a quanto è costato, che Benvenuti al Sud comunque è una produzione importante, c'è un certo costo, ma ce ne sono alcuni fatti con niente, cioè il famigerato e tanto temuto 3 metri sopra il cielo fu fatto con niente, con Scamarcio che all'epoca non era nessuno, niente, con un regista che era il suo primo film, una produzione leggera, le cose, e fu un botto, anche se in valore assoluto non può gareggiare con i pezzi da 90, comunque fu una cosa pazzesca. Vabbè, torniamo a bomba e parliamo di film usciti questa settimana. Ah, cioè poi c'è il grande Ciclone, uno degli altri grandissimi incassi italiani. Ciclone fece tantissimo, fu prima della Vita è Bella, era il maggior incasso italiano della storia del cinema italiano. Prego. Ma torniamo a noi. Sì. Esce questa settimana il nuovo film di come si chiama? Di Woody Allen. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni. Allora, quando è come quando esce un disco di Zucchero di Ligabue, mi viene l'orchite. Se tu non ami Woody Allen, invece sono un grandissimo amante di Woody Allen. Io lo trovo un cineasta fantastico, un cineasta che ha 70 anni e fischia, ancora va al ritmo di un film l'anno, un ritmo insostenibile per chiunque, tranne che per lui forse Pupi Avati che regge. Incontrare l'uomo dei sogni era un film che io ho visto al Festival di Cannes e che, come avevo detto settimana scorsa, non ricordavo niente di questo film, quindi è un film inutile. Ma, no, perché era stata una proiezione mattutina, sì, insomma, sì, no. Sono andato a rivederlo perché sono una persona coscienziosa che fa il suo lavoro, andato a vederlo per il pubblico, e in effetti devo dire che rispetto ai film di Woody Allen, rispetto agli ultimi che erano molto belli, non è una bomba. Questo è, cioè, c'era un motivo se non ricordavo niente di niente, però ci avevo anche messo del mio, nel senso che comunque non è che ti fai trascinare dall'amore per lui, dal nome altisonante, allora, la soggezione, gli altri critici che parlano bene. No, allora io sono sincero e confesso che io sono un alleniano, cioè a me piace moltissimo Woody Allen, per cui sicuramente poi sono molto indulgente o mi faccio piacere facilmente i suoi film. E non dovresti farlo, questo è sicuro. Non dovresti basta dichiararlo, cioè siamo uomini, abbiamo le nostre passioni. Cioè, tu non c'hai le tue musicali, non hai qualcuno a cui perdoneresti tutto? Vivo? Se Peter Gabriel domani facesse una vaccata epica, tu magari diresti non è un bel disco. L'ho detto. Però comunque l'ho no. L'ho detto, il disco, l'ultimo disco che ha fatto, quello con gli archi, le cose, ho detto che era però non, sì, ma non lo distruggerei mai come distruggeresti un qualsiasi altro disco. Come comunque no, c'è no, un po' d'amore. No, è che mica me lo sono sposato. No, io Woody Allen me lo sono sposato, cioè ho un po' di amore e non lo comunque questo non è il caso, adesso sembra che questo è un disastro questo film, io lo voglio salvare, questo è un film meglio diciamo di Woody Allen, se siete alleniani sicuramente vi piacerà come è piaciuto a me, perché ha tutte quelle caratteristiche che ci piacciono del cinema di Woody Allen. Se non siete alleniani questo non è il film che vi convertirà, sono altri film che vi faranno capire che è un grandissimo regista. È un'opera di transizione, perché chi ha seguito le vicissitudini di Woody Allen sa che negli ultimi anni ha cominciato a fare cose un po' strane, cioè si è mosso da Manhattan a un certo punto, è andato a fare film a Londra, ha cominciato a fare Match Point, poi aveva fatto Cassandra's Dream, quello dei due fratelli, con Colin Farrell e Ewan McGregor, che era un altro film londinese, dei thriller aveva cominciato a fare che erano inusuali per lui, poi a un certo punto è ritornato a delle commedie, poi ha fatto quello stranissimo film che era Vicky Cristina a Barcellona, girato appunto a Barcellona, insomma sta facendo cose inedite per lui. Questo Incontrare l'uomo dei tuoi sogni è un po' come il film precedente, basta che funzioni, è un po' un ritorno alle vecchie atmosfere, però non ha quella verve dei grandi exploit, degli Anna e le sue sorelle, degli Io e Annie, insomma non ha quella potenza, è un Woody Allen medio, da amanti proprio. Cosa fai? Rispondi a messaggi mentre io parlo? Beh certo. Come certo? Parli di Woody Allen, non mi interessa. Oh, invece ecco, questo invece no, è importante. Ti hanno visto su Facebook che i tuoi miei film preferiti sono Ricky e Barabba e Rocky. Queste sono delle male lingue che certo. Sono uscite dopo che qualcuno mi ha taggato in quella foto. Escono male lingue. Ricky e Barabba è bello, bel film. Allora, Ricky e Barabba insieme, guarda, Ricky e Barabba insieme a I Piedi Piatti è forse uno dei due migliori film dei fratelli Vanzina. Sì. Allora, esce questa settimana, questo ve lo dico, segnatevelo, carta e penna, perché questo è uno di quei film, anzi vado subito a vedere in quante sale lo fanno a Roma, perché sono quei film che sono difficili da vedere, ma che vi danno, che vi ripagano, assolutamente. Allora, si tratta di Adam Resurrected. Motivi per vedere Adam Resurrected è che è un film di Paul Schrader. Chi non conoscesse Paul Schrader deve sapere che è la mente e la penna dietro i più grandi successi di Martin Scorsese. Paul Schrader è quello che è coautore di Toro Scatenato, è coautore di Taxi Driver, è coautore dell'Ultima Tentazione di Cristo, ha girato e ha scritto American Gigolo, è insomma un uomo di cinema che magari dal nome magari non notissimo ma straordinario, e se vedete i suoi film capite subito che tante cose di Scorsese sono sue in realtà, che poi questo non va a demerito di Scorsese, figuriamoci, ma però quanto è importante quest'uomo. Questo lo dico perché in Adam Resurrected troverete tanto di questo cinema che ho elencato, certo non magari quella parte gangsteristica, perché lui non è quel lato è proprio Scorsese, la sua vita, lui è più il lato colpa e redenzione, peccati che si lavano nel sangue, percorsi di salvazione, non a caso poi uno dei suoi film migliori che sono più riusciti è L'ultima tentazione di Cristo. Di cosa racconta Adam Resurrected? È un film che racconta di questo reduce dai campi di concentramento che era uno dei più grandi intrattenitori della Germania, ma era ebreo, era uno che faceva vaudeville, un grandissimo one man show straordinario, che ha vissuto questo olocausto terribile, lo vediamo nei suoi ricordi, e che ora sta in una clinica psichiatrica che riabilita proprio le vittime dell'olocausto. Però la nostra attenzione viene subito calamitata dal fatto che quest'uomo viene trattato in maniera strana, cioè i medici e tutti quanti lo trattano in maniera diversa dagli altri, con una certa reverenza, e si parla di lui come di un caso incredibile, e infatti vediamo subito che lui ha un controllo sul suo corpo fuori dal normale. Quando dico controllo sul suo corpo, voglio dire che lui riesce a sanguinare e smettere di sanguinare da solo, cioè controlla qualsiasi cosa del suo corpo, che è una cosa assolutamente anomala. Nel film questo non ha una vera spiegazione, si capisce ad un certo punto andando avanti che, come tipico di molti dei personaggi dei film di Schrader, che lui è dominato da qualcosa di più di se stesso, cioè lui è un film sul contrasto tra lo spirito e la materia, lui è dominato come Cristo era, il Cristo di L'ultima tentazione di Cristo, era dominato dalla santità e la carne non riusciva a tenere questa santità, tant'è che c'erano le stimmate, c'erano tanti altri segni. Lui è dominato dal male perché ha vissuto il male, l'ha interiorizzato nei campi di concentramento e ora ne è dominato, ma questo male poi si traduce e soprattutto per espiarlo, lui fa un percorso come il paramedico di Al di là della vita, che era un altro film di Scorsese e Schrader. Fa un percorso che non è verso l'alto di purificazione, ma verso il basso. Lui scende sempre più giù, sempre più peccaminoso. A un certo punto possiede violentemente questa infermiera straordinaria, bellissima, con un'aria porca incredibile per essere un'infermiera. Ma che è il film di Woody Allen? No, questo è il film di Schrader, che era lo sceneggiatore di Scorsese. Te ti distrai. Quale film? Adam Resurrected. Un film fenomenale. Lui, in tutto questo, non vi ho detto, lui è Jeff Goldblum, cioè la mosca, un attore fenomenale, e fa questo percorso stupendo in questa clinica in mezzo al deserto, come Gesù è andato 40 giorni nel deserto. A un certo punto ci sarà proprio una citazione di questo momento, perché lui incontrerà l'alberello che diventa fuoco, come anche si vede nell'ultima ambientazione, ed è un percorso sia metaforico sia molto concreto. Ma non esce oggi? Come no? Stiamo scherzando? No. Stai parlando di un film che non esce, Adam Resurrected. Sì, qui non lo notano, ma c'è. Io ho le mie fonti ed esce. Hai parlato a vuoto per un'ora di un film? No, esce dal 3, esce dal 3 al 16 dicembre, e lo fanno anche, dove, anche dove? Al nuovo cinema Aquila di Roma. E quindi il Coming Soon ha bucato? Che ti posso fare? Io non sono un dipendente di Coming Soon, io lavoro per la concorrenza di Coming Soon. Noi l'avevamo scritto, non posso dire altro. Hai capito? Che pippette. Prego. Insomma, Adam Resurrected, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, un filmone, una bomba vera. Se siete amanti del cinema di Scorsese, quello più carnale, quello più incazzato e più intellettuale al tempo stesso, troverete sicuramente soddisfazione. Ma poi, addirittura. Ti ho detto, lui è una storia pazzesca di quest'uomo dominato da qualcosa di superiore a se stesso, che lo vive come martirio della carne. Lui sta male, lui sanguina. Ha dei momenti, solamente è perché è dominato dal male, ma insomma è difficile, sai, questi film sono molto difficili da spiegare a parole, perché sono esperienze visive, poi soprattutto. Vabbè, tu sei un critico che certo, stai facendo, no, cioè, io confesso le mie difficoltà nonostante la mia ammirabile retorica. Ultima ora, Quirinale, nessuno può oscurare prerogative colle. No, non posso. Prego. Non la dire, uscita adesso. Praticamente il Presidente della Repubblica ha detto che è lui che decide se si va alle elezioni o meno. Se non ci sono i numeri si va alle elezioni, se ci sono ha i numeri si prosegue. Ha detto il pallone è mio. Esatto, la palla è mia, gioco io. Prego. Allora, altro film che esce questa settimana è un film che vi sconsiglio. Ma un bel film di fantascienza. Esce Tron tra poco, ci siamo. L'hai visto tu? Ancora no, perché esce il 31 dicembre. Va. Wow. Ti ho zittito questa cosa. Trovo Tron. So che quando, non so che farò quando uscirà Tron, che non potrò più dirti Tron. Allora, un film che vi sconsiglio perché insomma, no, secondo me è un film non riuscito, ma che potrebbe ingannare perché il titolo sembra invitante, è Tornando a casa per Natale, un film norvegese dello stesso autore di Kitchen Stories, e sono diverse storie a incastro intorno a Natale. Vuole un po' essere vuole un po' cavalcare il Natale alternativo, sai, quelli che vanno al cinema a Natale però non vogliono andare a vedere il panettone, vogliono vedere una cosa un pochino più di sostanza, e lui si propone un po' come il film di sostanza, anche perché noi siamo abituati a immaginare il cinema norvegese, svedese come cinema di sostanza, ma non è sempre così. In questo caso è un po' fuffa, è un po', non, insomma, abbastanza noiosetto, non va da nessuna parte, è un po' più annacquato rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi sui nostri cinema. Quando dico noi sui nostri cinema dico sia i film italiani che i film americani, insomma, non è, io poi non sono uno che è contrario al cinema norvegese, svedese o comunque nordico, anzi, ma questo non è proprio il caso degli exploit migliori, quindi lo sconsiglio vivamente. Allora, ti posso chiedere una cosa un po' ostica? Per caso la corista del live che avete fatto ieri in radio era Sibilla Malara? Ho riconosciuto un certo timbro, non lo so sinceramente, io so che si chiama Sibilla, probabilmente è lei, non, magari non è una cantante famosa che io non conosco, però sì, era lei. No, allora, lei si chiamava Sibilla, non so se era proprio Sibilla Malara. Scrive un ascoltatore, mi sono appena collegato, non so se ne avete parlato. Ha una voce straordinaria, veramente una grande grande voce. Dicevo, scrive un ascoltatore, mi sono appena collegato e non so se ne avete parlato, ma The Killer Inside Me, la sofferenza di vedere Jessica Alba così, ciao. Allora sì, The Killer Inside Me, non ne abbiamo parlato oggi, ne abbiamo parlato l'altra volta, a me devo dire non era piaciuto per nulla, non, è un film tratto dall'omonimo romanzo, molto bello, ma il film non è molto bello. E in particolare la scena a cui fai riferimento tu, in cui massacrano, sventrano di mazzate Jessica Alba, è una delle scene che mi è piaciuta di meno, non tanto per la violenza in sé, che anzi al cinema solamente apprezzo sempre, quanto perché insomma, è abbastanza fasulla, abbastanza mal riuscita veramente. Secondo me questo film è una delle punte più basse di Michael Winterbottom, che è uno che ce ne ha avute di punte basse. Ma parliamo del Tornando a casa per Natale. Ah, tu ti distrai, ne ho parlato fino adesso. Ne ho parlato finora. Cioè, che figura facciamo davanti agli ascoltatori? No, volevo vedere se stavi attento. Cioè, e abbiamo dato la birra analcolica ai Jackass. E tutti distrai. Cioè, cosa penseranno che sta succedendo qua? Ci si sono appallati gli occhi ai Jackass quando gli abbiamo dato la birra analcolica. Sono girati come l'esorcista. Perché a loro ormai non gli fa male più niente, ma la birra analcolica. Impazziscono. Oddio! Comunque adesso lo possiamo dire, io non mi andavo di dirlo davanti all'ufficio stampa le cose, ma comunque prima di venire qua io ho fatto un'altra intervista con loro e puzzavano di birra in una maniera come poche volte come mi è capitato tutti di gli intervistare. Americani bevono birra a rotta di collo. Mettiamola così, poche volte mi era capitato di intervistare americani, quindi in maniera ufficiale, insomma, è che puzzassero così di birra. Vabbè, andiamo avanti con altri films. L'ultimo esorcismo. L'ultimo esorcismo, un film che tu hai visto ma che non hai apprezzato, mi hai detto. No. Allora, l'ultimo esorcismo, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quella categoria di film tipo Paranormal Activity, tipo Blair Witch Project, quei film che fanno finta di essere veri, fanno finta di essere un vero documentario, fanno finta che, guardate, siamo qui a riprendere delle cose e poi succede l'imprevisto, succede il... non lo sapevamo neanche noi che sarebbe successo questo. Racconta di un prete all'americana, un pastore, che pratica dei finti esorcismi, lui fa vedere i suoi trucchi, lui quindi va da queste persone che credono di essere vittima di possessioni demoniache, fa queste scenette, convince con dei trucchi, fa bollire l'acqua appositamente, si collega dei cavi agli anelli che ha sui pollici per indurre la scossa negli invasati, così sembra che gli stia dando dell'energia, insomma ha tutta una serie di tecniche sue per fingere l'atto dell'esorcismo. Ovviamente, come potete immaginare, qualcosa non va per il verso giusto. È capitato nella casa sbagliata. Hai scelto la casa sbagliata per venire a fare il bastardo, perché stavolta questa è veramente posseduta. La cosa chiaramente la scoprirà gradualmente, rimarrà sempre più invischiato e c'è un finalone a grande grande sorpresa che non vi anticipo, che mi sembra capire anche per te è l'unica cosa che hai apprezzato. Sì, insomma. No, il finale era un bel finale, ma io non sono pazzo di questo film, non è che lo difenderei, cioè, mi è sembrato una cosa buona, però il finale mi ha convinto. Anche tutti i film. Vabbè, non è che può uscire ogni settimana, può uscire la bomba. No, hai ragione. Però. Certo, ma sai, mi stavo chiedendo una cosa. Ma se l'ultimo esorcismo è uscito adesso in sala, tu dove l'hai visto? L'ho visto stamattina. Ah, che stupido! Sai, la mattina! Ci sono i cinemi aperti la mattina, non lo sapevi? Al cinema la mattina, grandissimo. Prego, di. Volevo chiedere a Gabriele, hai già visto il nuovo film di Le Cronache di Narnia? Così, io sono molto curioso. Ancora dobbiamo vederlo, ancora deve esserci la proiezione stampa italiana. Ho trovato più belli i film dei libri. Sì? Sì. Ah, perché tu avevi letto anche i libri di Lewis? Sì. Ah, ok. Sei uno dei pochi, aver trovato meglio i film dei libri. Sì, perché eliminate tutte le parti in cui io l'ho trovato sempre insopportabile, in cui lui parla con i bambini. Vedete, cari ragazzi? Madonna. Dovete immaginare che erano cose che mi fanno perdere la concentrazione, invece i film levano queste parti, a parte il doppiaggio di Omar Sharif per il leone. Madonna santa, però non c'è più, comunque già al secondo non c'era più, anche perché giustamente avevo tralasciato il particolare che Omar Sharif è morto, quindi era anche difficile giustamente doppiasse il leone ancora. Invece esce questa settimana l'ultimo film, l'ultima uscita questa settimana è Tre all'improvviso. Proprio Tre all'improvviso è una delle... Io da quando faccio questo lavoro ho capito che il vero classico, cioè il vero film che non ti molla mai, che ne escono una caterva l'anno e che tu ci puoi fare affidamento che almeno uno al mese esce, è la commedia sentimentale di ambito nuzial familiare. Cioè quello in cui una donna e un uomo litigano e finiscono con lo sposarsi. Queste cose ne esce almeno uno al mese. All'inizio, come molti uomini, perché siamo, cioè, i miei pregiudizi, li odiavo, ma invece alla fine, a furia di iniezioni, tipo la cura a Ludovico, a furia di vederli, ho finito per apprezzarli in una maniera incredibile. Ho capito che invece hanno un grandissimo senso. Quindi no... Qui c'è la schiettezza degli ascoltatori, eh. C'è qualche ascoltatore che si è accorto che Prince ha altro per la testa questa settimana. Però dovrebbero apprezzare come io vado avanti lo stesso. Sì, proprio granitico. Contro tutto e contro tutti. Un solo uomo. Perché poi, tra l'altro, voi non sentite, ovviamente, che non dice niente, ma non vedete anche le facce di siamo scoraggianti. Dicevo, tre all'improvviso. Film con Katherine Heigl, che è quella di Grey's Anatomy, che è abbonata a queste commedie. Ne ha infilate 5 di fila, ormai non fa altro. Sta diventando il nuovo volto in cui si identificano le donne. Perché poi questo qui è un tipo di film molto indirizzato al pubblico femminile, tant'è che solitamente è prassi tipica che il personaggio di donna sia una donna bella ma non sensuale, perché solitamente le donne tendono a preferire donne non con una forte carica sessuale, ma più donne con un certo stile, con una certa bellezza più pulita, mentre invece gli uomini hanno una carica sessuale fortissima solitamente in questi film, sono uomini bellissimi, eh. In questo film c'è Josh Duhamel, che appunto in questa linea è un uomo decisamente più grida più letto di quanto non possa fare Katherine Heigl, che è una bella donna, ma insomma è anche conciata in una maniera più composta. Si racconta di due persone che escono, li vediamo uscire insieme la prima sera, litigano subito, non potranno mai stare insieme, si odiano, ma sono accomunati da due amici. Questi due amici che li avevano messi insieme, avevano provato a farli uscire. Questi amici hanno una figlia. Questi amici quasi subito muoiono in un incidente, lasciano la figlia da sola, loro li dovranno crescere. La dovranno crescere, dovranno quindi convivere e sono tipi completamente diversi. Lei è tutta precisina, maniaca del controllo, di qua di là, lui è un disperato, mille donne. Come al solito dovranno stare insieme e dovranno formare una famiglia. Devo dire che rispetto alla media di questi film, questo qui è un po' meglio, ha delle trovate interessanti, è particolarmente divertente in certi punti e ha anche una storia strana, perché in effetti poi la vera storia comincia a metà, dalla morte dei loro amici. Lì si snodano i veri tre atti della consueta commedia, per cui è anche particolare. Insomma, se è quello che state cercando, la commedia sentimentale, tra all'improvviso ha un po' più un suo perché di altri. Il ciclone fece 70 miliardi, scrive Anna, quindi 35 milioni di euro, sì, ma più o meno. A parte l'inflazione, si fa sempre fatica a fare questi calcoli, perché poi il prezzo del biglietto era diverso, a parte le lire. Comunque sì, esatto, sì. C'era un prezzo del biglietto diverso. Oh, che mi dici di questo film sul Vietnam girato da un regista italiano con attori italiani? My Life 4. Questo lo vedo questa settimana, che esce settimana prossima. Non so nulla, perché è un poco noto, è un film a bassissimo budget, per cui non c'è stata la produzione, è una produzione sconosciuta, insomma non c'è stato un battage pubblicitario e neanche comunicati stampa, quindi non so niente, però può essere interessante ovviamente. Vabbè, altri film non ce ne sono. Questa mi fa settimana. Ti interessa un po' di televisione? Faccio ma in fretta, sì, se sì, vuoi, sì, non vai, do fastidio. Vai. Allora, questa settimana tutto Rai 1. Rai 1 solamente questa settimana fa tre film, uno più bello dell'altro. Allora, su Rai 1, ovviamente, domenica 3:15 del mattino, ovviamente sono film a orari impossibili, ma questo ormai abbiamo capito che questi sono gli orari a cui registrare film se volete vedere roba decente. Domenica 3:15 del mattino di lunedì, la notte tra domenica e lunedì, su Rai 1, Non torno a casa stasera, che è uno dei primissimi e stupendi film di Francis Ford Coppola, prima che fece Il Padrino, che fu il suo botto, il botto che lo rivelò al mondo. Faceva questi film molto personali, molto originali. C'è James Caan, racconta di quest'uomo mezzo scemo che conosce questa donna, che è scappata, lui la conosce facendo l'autostop, scopre che lei è scappata, ma è veramente veramente molto bello. C'è tutto il Coppola che verrà dietro in questa piccola chicchetta, ripeto, si chiama Non torno a casa stasera, Rai 1, 3:15 della notte tra domenica e lunedì. Poi, questo per i rocchettari, giovedì, sempre Rai 1, 2:45, The Blues. The Blues è un documentario di Wim Wenders sul blues, anzi adesso lo vado a riprendere per bene per leggervi cosa c'è esattamente. Musica e vita di tre artisti blues in particolare: Skip James, Blind Willie Johnson e J.B. Lenoir, o Lenoir, non so la pronuncia corretta. Quindi sono tre artisti di primi del Novecento, proprio le radici del blues. È un film del 2002 di 100 minuti, un documentarione. Wim Wenders, insomma, da Buena Vista Social Club, sappiamo che è un appassionatone di musica, su queste cose ci dà tutto. È giovedì, nella notte tra giovedì e venerdì, 2.45, Rai 1. Infine, ultimo consiglio che vi do: venerdì prossimo, 3.15 del mattino, Rai 1 sempre, La Rabbia Giovane. La Rabbia Giovane è il film definitivo sui grandi spazi, sull'America dei grandi spazi, sulla rabbia giovane, su un certo modo di intendere il giovanilismo. È un film degli anni 60, è di Terrence Malick, è la sottilina rossa, Nuovo Mondo, è un cineasta pazzesco, se avete visto i suoi film sono straordinari. È con Martin Sheen, padre di Charlie Sheen, è il suo primo film, un esordio pazzesco, impossibile non consigliarvelo. Venerdì prossimo, nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.15 su Rai 1. Ah, ma l'hai visto The Tourist per caso? No, hai voglia? No, ancora no. The Tourist, ho un aneddoto incredibile su questo caso di The Tourist. Un anno fa esatto, intervistai, adesso vado anche a ricordarmi il nome perché è un attore minore, intervistai questo attore per Legion, che era un film che era uscito un anno fa, un'intervista telefonica. Facciamo l'intervista, lui mi maltratta nell'intervista, mi maltratta proprio e comincia a rispondere male alle mie domande. E vabbè, ma io sono un giornalista, che mi frega, io scrivo, non mi frega niente. Era Paul Bettany. Facciamo tutto quanto, chiudiamo, basta, ciao, va bene, ciao. Lui non attacca, evidentemente magari si sbaglia o pensa che io abbia attaccato, insomma, rimane aperto il telefono. E comincio? Tu da buon giornalista, figurati se attacco. E ora che comincia il divertimento, mi hai maltrattato, adesso sei famo durisate. Comincia. Ovviamente quando ci sono queste interviste telefoniche c'è sempre l'attore, l'agente e l'ufficio stampa, perché loro vigilano. Quindi lui non si trovava con gli amici suoi a casa sua, si trovava con i colleghi, con l'agente, e quindi parla di lavoro. E comincia a parlare di The Tourist, che io sapevo che film era, perché è un film con Johnny Depp, Angelina Jolie, quindi già un anno fa si sapeva che sarebbe stato, insomma, un film abbastanza grosso. E comincia a dire: mi rompo, non mi danno abbastanza soldi, insomma comincia a parlare proprio di denaro, comincia a dire: ma insomma qua là, insomma, ve la faccio breve. Tu hai scritto tutto, no? Alla grande. Che cavolo, è che mi maltratti e poi pretendi, ve lo dico così lo sapete: Paul Bettany in The Tourist ha voluto una valanga di soldi e non gliene fregava niente del film. Sarebbe il regista? No, un attore minore. Esatto. Ha avuto una valanga di soldi e non gliene fregava niente. Becca di questa Paul. E tu lo hai scritto? E certo. E lui l'avrà letto? No, figurati. No, è scritto in italiano, è difficile che l'abbia letto. Ma sai che faccio? Adesso che esce, lo riscrivo. Adesso che in inglese. Esatto, lo scrivo in inglese però. Va bene, grazie a tutte e a tutti, ci sentiamo per quel che mi riguarda lunedì, stessa frequenza, stessa radio. Grazie Livio. Grazie. Grazie, com'è? Baskets? Sì, sì, grazie. È sempre un piacere venire qua, essere valorizzato, vedere che c'è elettricità nell'aria. No, oggi è stata una trasmissione molto interessante per me. Ah. Posso dire, è stato bellissimo vedere Sandro che guardava e pensava ad altro, Vasquez che parlava, guardava Sandro e vedendo che non lo guardava, guardava altrove e continuava indefesso a parlare. Ah, Ghostbusters 3 mi chiedono. Ghostbusters 3, allora, è ufficiale che si fa. Non è ancora partita la produzione, nel senso che non lo stanno ancora girando, ma ci stanno lavorando e diciamo il progetto non si è fermato, sta andando avanti. È ufficiale che ci sta Bill Murray, ma farà il fantasma di se stesso. Muore alla fine della prima bobina, lo ha richiesto lui. Sì, perché lui non lo voleva fare Bill Murray, aveva detto: cor cavolo che faccio questa porcata, ma hanno insistito talmente tanto e lui ha fatto: va bene, lo fate, ma io muoio prima della fine della prima bobina, cioè proprio all'inizio, e semmai faccio la presenza da fantasma. Ho detto: vabbè, ci sta bene, quindi ci sarà, si farà e basta. Queste devono ancora. Sai che dovremmo fare? Dovresti fare una sorta di classifica dei, o meglio di lista dei film che escono sequel, che usciranno sequel. Ah, cioè tenere d'occhio tutti i sequel, fare proprio un, che ne so, venerdì prossimo una lista di sequel che stanno per uscire. Cioè, bella idea, ci penso, sono un genio incredibile. Però, o anche di remakes. Oh, anche bene, remakes è un'altra puntata, invece fare proprio una lista di film Sarà fatto, sarà fatto. Più o meno il 99% della produzione americana. Esatto. Lista lunga. O reinventano delle cose, quindi remake o ispirati a fumetti, libri o sequel o... Mamma mia. È vero, filmoni non ne sono usciti ultimamente. No, è un periodo che il remake e il sequel è la cifra maggiore, sì. Ma io sono della corrente di pensiero che in alcuni di questi remake e di questi sequel c'è più inventiva che in film che partono da zero. Poi alcuni per carità no, ma altri invece hanno molto un loro perché. Poi mi chiedono se la conversazione è di Schrader. No, non è di Schrader, è tutto Coppola la conversazione, sia scrittura che regia. Bel film quello lì. Ammazza. Vabbè, grazie, ciao, a lunedì se tutto va bene. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non rocca lì mai sugo. Grazie, ciao. Ciao. Saluta. Ciao. Meno male.